Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. What is that? Dog. Still warm. He got hungry. Could have been a skunk. Could have. Man wouldn't do that. This isn't a mask. Oh. È la seconda parte di Eclettica, di questa 34esima settimana in compagnia di Giulio Caperdoni. Seconda parte che si è aperta con un brano bello lunghetto, sì. Block Party Banquet nella versione Boys Noise Vox Mix. Perché ho messo questo brano? Beh, perché in molti fra voi, colpiti dai Wolf Mother con Woman nella versione remix che sto mettendo da qualche settimana a questa parte, mi hanno chiesto da dove provenisse. Allora io ho parlato sia in onda ma soprattutto ai tanti mail che mi sono arrivati, ho risposto proprio scrivendo che è una compilation, Kitsune Maison Compilation di Electrodance francese, e in più di uno mi aveva proposto, mi si era fatto avanti dicendo: mi fai ascoltare qualche altro brano? Ecco, vi accontentate con questo remix dei Block Party, però direi che non siamo allo stesso livello dei Wolf Mothers, mi posso permettere, posso? Giulio Caperdoni quindi in vostra compagnia con musica, musica nuova, musica vecchia, vecchia di qualche settimana in termini di presenza all'interno delle nostre playlist, e musica che magari può anche arrivare davvero dal passato, magari dalle playlist di Eclettica di qualche anno fa. Una nuova cosa che ho iniziato da qualche settimana, anche qua sempre dietro stimolo vostro. Sapete, il pungolo si chiama Giulio at radiorockfm.com. Vi dicevo, musica nuova che in questo caso arriva da Roma. Loro si chiamano Rev Hertz, vi rimando alla playlist che potete ottenere nella vostra casella di posta nel caso siate iscritti o vi iscriviate alla lista nera di Eclettica. Lista nerica era un po' un'abbreviazione così per semplificarmi la vita. Rev Hertz è il nome della band romana. Vi stavo dicendo che esce in questi giorni nei negozi di dischi con un album dal titolo Buongiorno fra i Lembe e 99 Posse. Ho letto. Potrebbe anche starci, dipende da quale brano si ascolta. Noi per quest'oggi ci ascoltiamo una traccia che ha per titolo Senza Filtro. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d appena un pianto. Prese i quattro spicci gialli, cammino per ore. Mare poi soltanto botte, giorno e notte freddo. Mai difficile quanto chiedersi perché lei. Così un giorno prende il sacco senza far rumore. Al tempo in cui si svolge questa storia, Tuxham era quasi dimenticato. La maggior parte degli abitanti della vicina Salisburgo non avrebbero saputo dire dove si trovava quel posto. Per molti già il nome suonava straniero. Tuxham? Birmingham? Nottingham? In effetti, la prima squadra di calcio dopo la guerra si era chiamata Tuxham Forest, fino a quando, dopo la promozione dall'ultima serie, venne ribattezzata e poi addirittura denominata, in seguito ad ulteriori promozioni avvenute nel corso degli anni, FC Salzburg, anche se ormai potrebbe essere retrocessa pure di nome. Certo, la gente del centro di Salisburgo vedeva passare non pochi autobus con la scritta Tuxham, né più pieni né più vuoti degli altri, ma quasi nessuno della città era mai salito su uno di quegli autobus. Questo era l'incipit de In una notte buia uscì dalla mia casa silenziosa di Peter Handke. Thank you. all of us like the coats and cloak rooms. And if you rise again, take a form I know. The river will boil and overflow, and the houses you're haunting will tremble with temporal hoodoo. I don't know about you, but I am hell-bent, I know what it is that I must do. Close your eyes when we kiss, 'cause I am prepared to set myself on fire for this. You will drop on all fours. Get down, show me what you're good for. Sass mouth, pink belly, that pristine. If you're this or not, indeed, I'm throwing you over my bony knee. So don't cry, don't scream, good lord. You always know what you're in for. My belt done buckle, so believe you. Lovely little thing, I'm throwing you over my bony knee. World from my moving feet, hands in my pockets, and I watch always. it's good to be wasted and lost. When there is nothing, always something can come. I need away from fury. Bring me that machine that gives that beauty. Just to illustrate how good we became, will we be able to restore what we love and hate? Will the signs be cool enough to manufacture the last pill to avoid us from pain? Lui si chiama Pepo Marquez, è di Madrid, però si presenta con uno pseudonimo, The Secret Society, ed incide per un'etichetta che si conferma ancora una volta come etichetta di qualità, la Aquarela Records. Ecco, Secret Society per la Aquarela Records, uscito ormai qualche mese fa con un album di titolo Sad Boys Dance When No One's Watching, direi verissima come massima. E Man vs Machine invece, il brano che vi siete ascoltati quasi in chiusura di questa seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Prima di salutarvi vi voglio ricordare che all'indirizzo giulio@radiorockfm.com avete la possibilità di vincere alcuni ingressi gratuiti alla Casa 139 di Milano per i DVD recordings che si terranno nel mese di giugno, già cominciati. Per esempio anche questa sera, per chi ascoltasse in diretta, ci sono in Marta sui tubi e solo gli appartenenti alla lista nera hanno avuto la possibilità di vincere gli ingressi. Invece voi che ascoltate potrete andare a vedere, oltre ovviamente agli stessi partecipanti alla lista nera, potrete andare il 14 di giugno a vedere Cesare Basile o il 28 Marco Parente. In entrambi i casi DVD recording at Casa 139 di Milano. Scrivete giulio@radiorockfm.com che vi saluta su I Suburban Kids with Biblical Names. Questa è Rent a Wreck. Songs and drink some more and fall asleep. Getting taped by locals. Don't have the nerve to ask for food and die of thirst in the backseats of rented wrecks. Let's hope these wheels got what it takes to carry us home. T-shirt salesman and the followers it brings. Single package systems, soul DJs, and you know the riot that brings. I wanna turn all their dance floors into a burning inferno of bop. I play the piano and I play the guitar. I played it on clubs and I played it in bars. I visited your city and I slept on your floors. I borrowed your strings and I've heard your hardcore. All the scores of the C to the A and the U from today. And it's beautiful. Still I can't get enough of it. Did you see me eating frosties from your fridge? And the rice cookies you never ate. They're all gone when you went. Oh, eclettica. Fine della seconda parte.